Il progetto italo-tedesco, appoggiato dalla Gran Bretagna, di istituire centri di accoglienza in Nord Africa per contrastare il flusso dei clandestini verso l'Europa, tornerà da oggi in discussione a Bruxelles nella riunione dei capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione Europea. Stando alle previsioni, non muterà la posizione contraria di Francia e Spagna, che lo giudicano assolutamente non rispettoso dei diritti dell'uomo e portano inoltre a difesa della loro posizione l'esperienza francese, assolutamente negativa, del campo di San Gallo.